che è la migliore rappresentante che il centrosinistra potesse avere a Palermo, ma che è una candidata che aggrega anche consensi che vanno oltre il centrosinistra tradizionale, consensi che vengono dalla società civile organizzata, dai movimenti, dal mondo del volontariato, dall'elettorato cattolico. Cioè, quella di Rita è una candidatura sicuramente del centrosinistra, ma ha una grande capacità di espansione, di attrazione di consenso, che può conquistare davvero la maggioranza dei palermitani. Io penso che abbiamo fatto un gran lavoro, io ho lavorato seriamente per aggregare tutte le forze politiche del centrosinistra. Diciamo, sono contento che anche gli altri partiti del centrosinistra si siano ritrovati in un progetto importante di cambiamento, che oggi dice a questa città che davvero si può cambiare, si può andare oltre quella che è stata la devastazione berlusconiana degli ultimi 10 anni. Ecco, perché di fatto quello che poi prenderà il posto, diciamo, di Cammarata, il nuovo sindaco di Palermo, avrà tantissime cose da fare, perché c'è un dissesto economico sulla città che è impressionante. Guardi, se c'è una città dove davvero bisogna ricominciare a ricostruire le condizioni di praticabilità, anche di esigibilità e dei diritti civili che sono stati negati in questi anni in questa città, è proprio Palermo. Qua davvero c'è bisogno di fare un gran lavoro. Le casse del comune sono dissestate, i servizi ai cittadini e alle imprese sono un disastro, si è bloccato il piano di infrastrutturazione, la viabilità in condizioni davvero inimmaginabili, abbiamo un tasso altissimo di inquinamento in città, il piano dei parcheggi si è bloccato, la metropolitana non procede, c'è una situazione che è davvero molto molto negativa. Serviranno anni di duro lavoro, di lavoro serio, fatto bene, appunto come la Borsellino potrà fare, per rilanciare l'immagine anche della nostra città a livello nazionale e internazionale. Dopo 10 anni in cui la società civile sembrava spenta, ora a Palermo si sente che l'aria sta cambiando, basta vedere le liste civiche e i ragazzi impegnati. Un esempio fra tutti è il partito della Lista Sud, un partito giovane molto a sinistra, il candidato scelto è Fabrizio Ferrandelli, Giovanni Maniscalco è uno dei coordinatori. Noi non abbiamo nulla da dividere con gli altri partiti del Sud, per la precisione noi siamo il partito del Sud che anche a Napoli ha appoggiato De Magistris, lo stesso partito del Sud, noi già abbiamo partecipato alle elezioni di Napoli. Allora, noi riteniamo, per quanto riguarda i problemi di Palermo, che sono tantissime, cioè c'è il problema dell'igiene ambientale, poi c'è un problema occupazionale che il comune dovrebbe farsi parte promotrice e creare le condizioni affinché ci sia uno sviluppo economico nella città che porti lavoro, quindi attirare imprese, attirare turismo, tutta una serie di iniziative. Seconda cosa, c'è un problema del traffico che ormai è diventato un caos, una giungla a Palermo. Una cosa che non viene toccata, mi sembra, da quello che ha detto lei, è il dissesto economico in cui versa la città. Sì, no, quello pure, senz'altro. Ma cosa si può fare, diciamo, perché qua la storia fa impressione, da guardare da fuori, guardando i conti anche delle municipalizzate, è durissima. Allora, intanto questo problema del dissesto economico è un problema che la città si porta dietro da parecchi anni. Bisognerebbe andare indietro nel tempo, quando il sindaco era Orlando. Ok, questo però, una volta che abbiamo definito, diciamo, il percorso storico, cioè resta il fatto che chi sarà sindaco di Palermo si dovrà pelare una bella gatta. Esatto, si troverà una bella gatta da pelare, perché intanto c'è il problema della GESIP e quindi le municipalizzate. Noi non siamo stati mai in consiglio comunale perché siamo un partito giovane, diciamo che a Palermo operiamo da circa un anno e mezzo, quindi non conosciamo le effettive condizioni economiche del comune. Sappiamo che sono pessime, che c'è un dissesto economico, che il comune è pieno di debiti, però è pur vero che il sindaco uscente Cammarata ha sperperato e non ha fatto mai niente. Questo è un dato di fatto. Assodato proprio, ha sperperato. De Cammarata è quello che aveva la barca e si teneva un operaio Gesip che gli faceva da skipper sulla sua barca, pagato con i soldi dei contribuenti. Era Italia in controluce, vi saluta qui Daniele Biacchesi, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.